Ariano Tomatis, Filo Sottile, Incantagioni. Ciao a tutti, a tutte, a tutti, a tutte, benvenuti, benvenute, benvenuto, benvenute. E, come ha già molto sinteticamente annunciato Denise, siamo qui questa sera con Mariano Tomatis a presentare il suo ultimo lavoro, non ultimo nel senso che non ne farà altri, ma ultimo nel senso di ordine di uscita. Che in realtà non è esattamente così, ma ci arrivo fra un secondo. Si chiama Incantagioni, storie di veggenti, sibille, sonnambule e altre fantasmagoriche liberazioni, uscito nel mese di maggio per Nero Edition ed è uscito praticamente in contemporanea a un bootleg di questo stesso libro, cioè una... Ecco, Mariano me lo sta mostrando. Se fosse un CD degli anni 90 potrebbe essere una bonus track in qualche modo, o un appendice, se vi piace questo termine un pochino più retro. Comunque ci sono tutti i materiali, non tutti, tanti materiali e fonti di prima mano, che è insomma il lavoro che sta dietro questo libro, Incantagioni. Mi sembra un po' assurdo presentare Mariano qui nella sua città, però invece mi preme provare a fare una panoramica rapida delle cose che ha fatto, no, per fare massa critica, no, per far vedere, per inquadrare qual è il lavoro di Mariano in questi anni. Mariano è tante cose, si è scritto un libro, evidentemente è scrittore, si è scritto un libro di storia della magia, evidentemente è anche uno storico della magia, però è anche prestigiatore, illusionista, mentalista, e qui ci metto un piccolo aneddoto personale che riguarda anche il nostro incontro. Io sono figlia di prestigiatore, anzi sono figlia di una persona che oltre a fare giochi di prestigio costruisce giochi di prestigio per altre persone, e per cui ho passato la mia infanzia a vedere mille spettacoli di prestigiatori, di illusionisti, e a ricevere in casa prestigiatori che commissionavano giochi a mio padre, e gente che, capito, poi dormiva dentro il mio letto perché avevano fatto troppo tardi, cioè io andavo a scuola, loro si coricavano nel letto mio. E il risultato di tutto questo è che io il giudizio che avevo della magia da palco, dell'illusionismo, era che fosse un'arte spettacolare, irredimibile. Cioè io trovavo questa cosa fin da bambina bruttissima, orribile, piena di... ovviamente allora con gli strumenti che avevo allora, adesso con gli strumenti che ho adesso, però sentivo proprio la pesantezza delle retoriche tossiche che stanno in quel mondo spesso. E sono andata avanti così per tutta la mia vita, fino a quando nel 2014 non ho conosciuto Mariano. Ci siamo conosciuti a una presentazione di un libro che si chiamava Difendere la Terra di Mezzo, di Gumin 4. Io lo presentavo il libro di Gumin 4. Mariano era venuto a sentire la presentazione e nelle chiacchiere che abbiamo fatto prima della presentazione io ho detto: oddio, io voglio conoscere questa persona e diventarci subito amico. Perché ho capito che c'erano tutta una serie di punti in comune, e quando mi ha detto di però essere un illusionista, di aver militato nel CICAP, io sono andato in confusione, perché per me il CICAP era la morte e allo stesso tempo e anche gli illusionisti, per cui però guarda, seguendo il lavoro di Mariano ho capito appunto che mi ha indicato la strada, cioè mi ha spiegato alcune delle cose che io pensavo in maniera molto senza rifletterci, no? In maniera molto istintiva sentivo ripulsa, disgusto per determinate cose, e Mariano mi ha spiegato perché e come si poteva sfuggire da queste cose. Pochi giorni dopo il nostro incontro erano i giorni del processo ai quattro del compressore in Val Susa, no? Quattro persone che avevano danneggiato un compressore del cantiere TAV, che sono state incriminate per terrorismo, un compressore che nel giro di 20 giorni è stato riparato e rivenduto, perché ci hanno fatto pure i soldi sopra, e rischiavano, no, pene detentive lunghissime da terrorist. E Mariano su questa storia ci ha costruito un gioco di prestigio meraviglioso, delizioso, che è ancora online e si trova, non mi ricordo come si intitola, però Let the Poker Free, esattamente, perché erano quattro persone incriminate e niente, io in quel momento nel frattempo mi ero procurata alcuni dei suoi libri e avevo cominciato a leggerli, gli ho scritto una mail e ho detto grazie Mariano, perché mi stai facendo vedere che la magia da spettacolo ha delle potenzialità e può essere strumento valido per raccontare delle cose che hanno un senso. Per cui questo è stato il nostro incontro e dopodiché ho scoperto altre cose meravigliose di Mariano, tipo che guardava alla magia dello spettacolo con delle attenzioni alle dinamiche di genere. C'è un suo documentario piccolo come minutaggio ma molto importante che si chiama Donne a metà, che racconta il numero celeberrimo della donna segata a metà da una prospettiva molto più interessante di quanto mai ne abbiate sentito raccontare. E sono preso gli appunti perché mi perdo. Mariano fa oggetti di alto artigianato, il suo bootleg insomma ne è la dimostrazione, e io insomma ho potuto beneficiare anche delle produzioni, delle autoproduzioni di Mariano, perché la punk spiegata alla nonna l'ha impaginato questa persona, il compleanno del mio spettacolo, e anche il gioco di prestigio finale con cui io riesco a rovinare sempre il finale del mio spettacolo è un contributo di Mariano. E cosa volevo ancora dire? Sì, è uno studioso, è un iniettore di meraviglia, e fra le varie discipline di cui si occupa la magia da palco, no? L'escapologia, la cartomagia, quella di cui Mariano insomma ha dato il suo maggior contributo è il mentalismo, però il mentalismo ha una storia molto particolare e si esercita in un ambito molto particolare della magia da palco, nel senso che è quell'arte magica che nega di essere spettacolo e nega di essere illusione, grazie, e che però ha una nascita diciamo in qualche modo nobile da un medico che si chiama Mesmer. Tra l'altro Mesmer è il nome di un progetto crossmediale che Mariano porta avanti da alcuni anni, che prevede la scrittura di libri, prevede la produzione di video, di libri che sono manuali, che sono saggi storici e che sono reportage di viaggio e controguide di città, e per cui volevo chiederti se ci volevi raccontare come da Anton Mesmer, medico del Settecento, possiamo arrivare a Silvan e ai moderni mentalisti. Grazie per questa lusinghiera presentazione, a voi di sfidare in caldo per noi, per lei naturalmente, quindi io cercherò di essere all'altezza di Filo Sottile. No. Mesmer era un medico che curava con le calamite, perché poiché nel sangue c'era il ferro, c'era l'idea che con le calamite si poteva riequilibrare il sangue nel corpo e curare così i blocchi, eccetera. Un giorno si presenta davanti al malato senza le calamite, prova con le mani nude e scopre che funziona lo stesso. e quindi teorizza che il corpo umano è dotato di magnetismo. Nasce la teoria del magnetismo animale contrapposta a quella del magnetismo minerale, quello delle calamite, il magnetismo minerale. L'essere umano è dotato di poteri magnetici, con questo lui cura le malattie e funziona. Il punto è che ha successo a Parigi, tutte le nobildonne e le persone dell'altra corte vogliono prendere parte a queste cure. In particolare uno dei suoi allievi un giorno impone le mani a un contadino e questo contadino si addormenta grazie a questa azione magnetica, ma non solo si addormenta, in quel momento gli si apre il terzo occhio e questa persona inizia a vedere attraverso i muri, inizia a poter prevedere il decorso della propria malattia, vede addirittura attraverso il corpo, quindi diventa una specie di ecografo umano che guardando nella pancia vede dove c'è il calcolo, dove c'è il tumore, dove c'è una cisti. E quindi i medici iniziano a portare con sé queste figure in questo stato mentale strano che viene chiamato sonnambulismo artificiale, per contrapporlo al sonnambulismo che invece tanti di noi vivono quando si trovano in cucina nel cuore della notte e non capiscono come ci sia arrivati. E questo stato di sonnambulismo che spalanca il terzo occhio apparentemente è il primo incontro della scienza con il paranormale. I poteri psichici, telepatia, chiaroveggenza, precognizione diventano non solo verificabili ma riproducibili con una procedura scientifica. La scienza per la prima volta alla fine del Settecento capisce che il paranormale è controllabile e anche a ripetizione. A questo punto sempre più persone vogliono vederlo in azione, perché ovviamente una notizia del genere incuriosisce, ma è molto poco spettacolare vedere una persona che impone le mani a una donna incinta e indovina che il nascituro sarà femmina o sarà non binary, che ne so. Come si fa a verificare questa cosa? Possono volerci anni, uno spettacolo durerebbe troppo. E allora alcuni iniziano a ragionare, ma allora invece di indovinare il sesso del nascituro, indoviniamo una carta scelta da un mazzo e pensata. Oppure facciamo leggere una pagina chiusa di un libro, così la verifica si può fare subito. Il trattamento cede passo all'intrattenimento, cioè il magnetismo animale viene impiegato per fare delle cose impossibili, paranormali, sorprendenti, chiaroveggenza, telepatia, trasmissione del pensiero, e a questo punto si sdoppia da un lato la medicina, dall'altro lo spettacolo. E la stessa persona al pomeriggio può curare le pazienti e i pazienti e la sera fare uno spettacolo, e lo spettacolo naturalmente viene fatto per portare poi nella clinica persone che disponibili a pagare per queste cure. Tipicamente la scena magnetica che si presenta sul palco è sempre la stessa: c'è un maschio che ha il potere magnetico, che imponendo le mani a una donna la magnetizza. Questo accade in questo stato tra il sonno e la veglia, continua a poter parlare ma gli occhi chiusi, e in quel momento la dinamica di potere si capovolge, perché l'uomo non serve più a nulla ed è lei che vede ben oltre gli occhi di quest'uomo, vede cose che l'uomo non vede più. Io ho trovato molto affascinante questa dinamica di scambio di potere, perché invece sui palcoscenici oggi della magia l'uomo ha un dominio assoluto, la donna si presta alla sega, viene segata in due, poi ricomposta, perché naturalmente ogni femminicidio che si conclude con la sopravvivenza della persona è anche un po' una cosa che noi maschi piace vedere, perché, come dire, tutto si può risolvere senza lasciare troppi danni, basta non lasciare un segno permanente. L'intera magia si basa sulla tortura di un corpo femminile, addirittura le colleghe illusioniste che segano in due una persona, segano in due delle modelle, delle donne, e quindi c'è proprio una difficoltà a invertire i generi. Quando ho scoperto questa scena magnetica dell'Ottocento mi sono affascinato, mi sono detto: scommetti che alcune di queste sonnambule hanno approfittato di questo scambio di poteri. E poiché detta così è molto teorica, e però siamo in una specie di sala teatrale eccetera, e io ho una sonnambula potenziale, ce l'ho accanto, se vi va posso farvi vedere cosa avreste visto nel 1850 qui a Torino al teatro Vauxhall in via della Rocca, dove si esibirono due delle sei protagoniste delle pagine di Incantagioni, la Sibilla Moderna nel 1852 e Prudence Bernard capitolo 5 nel 1850. Vi va? Proviamo? Filo si presta? Potrei essere la prima sonnambula trans della storia. Allora, l'applauso ora, perché poi quando sarà in stato di sonnambulismo vi chiedo di non fare troppo, di non applaudire, magari di farlo con le mani chiuse. Quando sarà poi di nuovo sveglia, allora potrete tributarle l'applauso. Se vedete che cado allo sgabello, è tutto ok. Allora, ho lasciato dentro la maschera da mettere sugli occhi. Non è che devo suonare? Musicisti. Come Silvan dimostra che è assolutamente indosso il sacchetto, non useremo la maschera che si usava all'epoca, che era di raso, di pulle, eccetera, useremo una FFP2. Altri, insomma, aggiorniamo anche un po' l'anno. È super sicura, regà. Se non passa il virus. Se non passa il virus, capito? Figurati se ci passa la mia vista. Allora, già senza occhiali. già con però... occhiali, ecco. Ah, ok, così. Sì. Allora, io adesso prenderò un mazzo di carte e farò scegliere tre carte a tre persone. Di voi non vi metterò in imbarazzo come fanno di solito gli illusionisti, perché non vi farò alcuna domanda. Sarà lei che si metterà in comunicazione con le vostre menti e cercherà di vedere a distanza i vostri pensieri. Proviamo. Solo tre persone che hanno in mente quella carta lì specifica. Nessuno di noi ovviamente conosce il loro valore, solo voi tre l'avete vista. Io chiedo di alzarvi in piedi. Filo cercherà di mettersi in comunicazione mentale con le vostre menti. Se sentite nominare la vostra carta, vi sedete. In questo modo no, non applaudite voi naturalmente, però avremo un feedback magnificato della lettura. Attenzione. Due di quadri. E noi ci siamo andati una volta da soli con mio marito. Poi siamo andati una volta con il padre. Cinque di fiori. Otto di picche. Potete applaudirla. Sono brava. Sono andato a grattare nelle vite di donne che vivevano facendo questo per chiedermi: ma questo tipo di poteri li hanno mai usati per qualcosa che non fosse soltanto ricevere un applauso? E il risultato è questo libro. Oh regà, abbiamo finito. No, non è vero, abbiamo appena cominciato. Allora, appunto, come già stava accennando Mariano, in questo libro sono raccontate le storie di sei donne vissute a cavallo tra il 700 e l'800, cioè una nel 700, le altre nell'800, e sei donne che hanno utilizzato questa nuova concezione, che hanno utilizzato queste tecniche. Lo dici tu poi quali tecniche? e che hanno rovesciato, hanno utilizzato questa possibilità per rovesciare, no, delle dinamiche di potere legate al genere e in alcuni casi anche legate alla classe. La cosa che volevo chiedere a Mariano, appunto, per cominciare a parlare veramente di questo libro, è come ha scoperto la storia di queste donne, come le ha selezionate, come le ha montate, nel senso come ha montato le loro storie, perché si tratta di un crescendo a tutti gli effetti, e come ha, insomma, come hai composto queste vite all'interno di quest'opera, per dire cosa. Non è un libro cronologico, segue un mio viaggio da Torino a Orléans, che ho fatto nell'estate del 2020, il libro che quindi ho scritto durante la seconda parte della pandemia, e quindi seguo un percorso geografico e non cronologico. In ognuna delle sei tappe del mio viaggio, che parte appunto da Torino attraverso il Canavese, poi passa per Lione, Montpellier, Tolosa e poi Orléans, e si richiude poi in anello con Torino, in ciascuna tappa ho incontrato una donna. E tipicamente cercavo storie che sfuggissero agli algoritmi dei social. Il criterio base era: se Wikipedia ne parla, io non ne parlerò. Quindi sono tutte storie che non trovate ancora su Wikipedia, finché qualcuna di voi così appassionata non approfondirà, gli dedicherà un podcast, una tesi di laurea, una serie a puntate su Netflix, e allora poi naturalmente ci finiranno. Ma questo era il criterio di costruzione del racconto. La domanda era... Ah sì, quindi questo è un diario di viaggio. È un diario di viaggio perché vi accompagno nelle piazze, nelle vie, che ne so, si arriva in piazzetta Maria Teresa a Torino e noto che su un albero si è aperto un occhio. C'è un enorme occhio proprio nel luogo in cui la Sibilla Moderna faceva quello che ha fatto poco fa Filo. E Filo all'epoca aveva ricevuto la fotografia, mi fa: certo, è un bagolaro, e quello è il risultato di una cesura, che qualcuno ha tagliato un ramo e si è aperto quest'occhio. E quest'occhio, girandomi intorno, vedo che osserva e guarda negli occhi il generale Pepe, questa maschia figura di generale con questo cannone puntato, e mi sembra la piazza perfetta dove mettere in scena, praticamente dove Torino mette in scena uno scontro tra due modi di intendere il mentalismo completamente diversi, quello maschio, rude, macista del generale Pepe, e invece quest'occhio che osserva e basta, che era quello della Sibilla Moderna. Il mio tentativo è stato quello di far parlare le città e i luoghi che visitavo, non introducendo elementi extra, ma semplicemente connettendo elementi che vedevo intorno a me. Un'altra sovrapposizione molto strana è che la Sibilla Moderna qui a Torino riceveva in via dell'Arcivescovado 7. Scopro questa notizia su un giornale dell'epoca, ci vado e trovo sulla facciata un bassorilievo di Gramsci, e scopro che nello stesso luogo in cui lei, metà 800, vedeva il futuro, Gramsci, una settantina di anni dopo, scriverà La città futura, e il famoso verso "Odio gli indifferenti" l'ha scritto lì, nello stesso luogo in cui costei guardava il futuro. Per cui queste sovrapposizioni non hanno un'esistenza al di fuori dello spazio e del tempo, ce l'hanno adesso che io ho notato questa sovrapposizione, e tutto il libro cerca di procedere in questo modo, cioè di raccontare storie del passato vedendo cosa oggi ha lasciato sul presente, pochissimo, ma allenando l'occhio a notare queste sovrapposizioni. E soprattutto la mia speranza è che qualcuna o qualcuno sia incuriosito e vada e magari mi faccia notare cose che mi erano sfuggite, ed è già successa questa cosa. Grazie. Dietro questo libro c'è una grandissima invocazione alla forza dell'immaginazione, ed è, insomma, io ci ho visto diversi tentativi che hanno anche una dimensione politica, e per cui mi sono chiesta, mentre leggevo, quale fosse il senso di evocare la vita di queste donne, di evocare la maniera particolare in cui sono state all'interno in questo territorio di confine, no? Fra la scienza di allora e la magia da spettacolo. A un certo punto nel tuo libro, parlando di una di queste donne, che è Jean Rochette, col mio francese perfetto, a cui tu hai dato questo nome di psiconauta, e quindi ti prego di raccontarci che cosa faceva qual era il suo particolare tipo di azione, qual era la sua esplorazione attraverso il sonnambulismo. In un passaggio di questo capitolo in cui parli della psiconauta, Dici, aspetta che devo trovare il pezzo. Racconti quanto l'immaginario possa cambiare la realtà, cioè il piano possa avere influenza sul piano di realtà in cui viviamo, e l'esempio che utilizzi è quello di Carlo Ginzburg quando racconta in un saggio storico l'effetto che ha avuto realmente nell'economia e nella società l'invenzione oppure la formalizzazione del purgatorio, e, no? Quanto quella cosa che per noi, per tanto di noi, è puramente immaginaria, abbia invece mutato radicalmente i rapporti di potere, di classe, economici. E, questa cosa è allo stesso tempo quello che ha fatto singolarmente per la sua vita Jean Rochette con le persone che la stavano ascoltando, e contemporaneamente mi ha fatto venire in mente un pezzo che un articolo che tu mi hai segnalato, perché non mi vanto di niente, è uscito, è una conversazione sbobinata, trascritta, messa su l'indiscreto, in cui a un certo punto Marco Mattei e Enrico Camurri fanno questa riflessione, ve ne leggo un piccolissimo estratto, che dice: quella che tu proponi mi sembra una sorta di de-estinzione culturale, cioè l'operazione che ha fatto Mariano è stata quella di andare a ripescare storie completamente dimenticate, che non ci sono neanche su Wikipedia, per andare a nutrire nuovamente il nostro immaginario presente, una sorta di distinzione culturale dove forme di pensiero che sono andate perdute senza poter sviluppare appieno il loro potenziale utopico vengono forzosamente riportate in essere, destinte appunto per riprenderci il futuro e partire dai futuri perduti, riappropriarci del passato a cui siamo condannati a causa del realismo capitalista e riscatenarlo contro il presente. Esatto, è una sorta di Jurassic Park delle idee, ed è un po' quello che è questo libro, cioè il tentativo di tirare fuori da una parte possibilità di stare all'interno del mondo magico in maniera non patriarcale o meno patriarcale, e dall'altra parte appunto tirare fuori, creare degli immaginari che possano immaginare nuovi futuri e nuove possibilità di narrazione. Se ci volevi raccontare uno di Jean Rochette e l'altro di questa suggestione che provo a darti. Ricorderete Jurassic Park, recuperano dall'Ambra il DNA di un dinosauro e lo riportano in vita. Nell'Ambra che ho trovato a Lione c'era la storia di Jean Rochette. Il magnetismo animale nasce a Parigi con Mesmer, raggiunge l'Italia tramite Torino, passando da Lione. A Lione, invece di svilupparsi dal punto di vista medico, lì che sono più mistici, utilizzano le sonnambule non per vedere i calcoli renali o il sesso del nascituro, ma per esplorare l'aldilà. Che cosa succede? Un gruppo di massoni, altolocati, ricchissimi di Lione, ha in cura una ragazza invece del popolo, poverissima, che si chiama Jean Rochette, e durante una di queste serate di magnetizzazione lei inizia a vedere l'aldilà e racconta di vedere il padre di uno di questi massoni, la madre di quell'altro, e questi improvvisamente si rendono conto che per la prima volta nella storia umana si può cartografare l'aldilà utilizzando uno strumento scientifico, ovvero una donna che vede quello che gli uomini non possono vedere. Costei, quando capisce che le stanno dando le chiavi del suo futuro, inizia a approfittarne. Per cui oggi lavorerebbe scrivendo i pitch per le serie di Netflix, perché lei lavora così: lei una sera racconta la storia fino a un certo punto, poi dice però mi devi produrre la serie, mi devi chiamare domani che ti racconto quel pezzo in più. Quindi lascia sul più bello con i classici cliffhanger eccetera, e quindi questi la devono rinvitare ancora il giorno dopo. Questa cosa deve fidelizzare gli spettatori, che in questo caso erano i massoni, e lei inizia a fare quello che oggi fanno le autrici di fantascienza, cioè a arredare mondi ultraterreni, e lo fa con l'attenzione al verismo, perché lei deve studiare l'immaginario cattolico, così come è stato definito, per non essere troppo deviante rispetto a quello che costoro si aspettano, ma al contempo introdurre degli elementi di novità. Lo stesso problema che ha J.J. Abrams quando gli dicono: torna e facci le nuove tre puntate di Star Wars. Oddio, devo rispettare i canoni, ma al contempo innovare, perché altrimenti la gente si annoia. Lei si trova a affrontare gli stessi problemi e riesce a farlo per un lunghissimo periodo, introducendo anche delle cose interessanti per sé, perché un giorno, per esempio, rivolgendosi a uno spirito, dice: come mi devono accompagnare in carrozza invece che accompagnarmi a piedi? E ha detto questo allo spirito: da domani mi dovete portare in carrozza. Come mi dovete pagare gli studi? Mi devono pagare gli studi? Glielo riferisco. Mi hanno detto dall'aldilà che... E inizia a manipolare costoro, inizia a far innamorare di sé l'uno per metterlo contro l'altro, inizia un giochino sul filo dell'erotismo molto raffinato, per cui quello che vedremo nel secolo successivo tra Houdini e le varie medium che si alzeranno la gonnella per convincerlo a non svelare troppo i loro trucchi, lei lo faceva dal punto di vista femminile un secolo prima. E insomma, che cosa succede alla fine? Che un giorno si annoia di questa situazione, è riuscita a trovare l'uomo da sposare, da spennare, che è il nipote tra l'altro di uno di questi massoni, e quindi, rivolgendosi agli spiriti, dice: come da domani mi potrò magnetizzare da sola e non avrò più bisogno di loro? Bene, questa è un'ottima notizia. In quel momento raggiunge una totale indipendenza da costoro, che restano un palmo di naso. La cacciano ovviamente dalle sedute, cancellano il suo nome con spesse righe da tutti i quaderni, che sono decine e decine, su cui c'è tutta la cartografia dell'aldilà riportata. E se voi oggi andate a Lione, alla biblioteca Pardieu, chiedete il microfilm, non vedete il nome di Jean Rochelle, perché è completamente coperto in tutte le occorrenze. Bisogna ovviamente fare delle ricerche in parallelo per scoprire che si chiamava così. Quella è un'esperienza... In teoria è un'esperienza abortita, perché è rimasta un'esperienza personale, non collettiva, eppure intuite il potenziale immaginifico che c'era. Oggi la riconosciamo, per esempio, in tutto il filone femminile o utopistico della fantascienza. Per cui estrarre dall'ambra questa storia, riraccontarla, è un modo per riprendere storie che non si sono evolute come forse avremmo voluto, ma che forse oggi ci possono dire qualcosa su come oggi quelle stesse dinamiche si possono ripresentare e potrebbero fiorire in altre direzioni. Grazie. Allora, abbiamo omesso di dire fino a questo momento, però comincia a intuirsi da questa storia che hai cominciato a raccontare, che queste donne non dobbiamo neanche idealizzarle, non sono delle stinche di sante, non so come si possa accordare e coniugare questa cosa, nel senso sono donne che appunto per un loro tornaconto personale, per la propria autodeterminazione, per riscattarsi, utilizzavano dei trucchi, dei sotterfugi, ingannavano le persone, e questo, no, potrebbe farci insomma sentire a disagio. Tuttavia io ho scoperto questa cosa grazie al lavoro di Mariano: esiste una possibilità per stare nella contraddizione, per abitare la frattura. Nel mondo del wrestling esiste questa distinzione fra le persone mark, le persone credulone, le persone che credono che tutto quello che avvenga in quel mondo lì sia assolutamente reale, e le persone smart, no? Quelle sgamate, quelle fiche, che invece sanno che è tutto scritto, e le une, insomma, le prime sono totalmente inconsapevoli del meccanismo che sta dietro, però riescono a goderne. Le altre sono consapevoli del meccanismo, ma non provano alcun piacere. Poiché c'è una terza categoria, che è quella smart, no? Che è la categoria delle persone che sanno che c'è il trucco e tuttavia ne godono lo stesso. Questa è anche la mia attitudine, cioè non sapevo che esistesse questa categoria, me l'ha svelato Mariano, però per anni mi sono, e continuo a farlo, nutrita di fantasie di complotto e leggende metropolitane, godendone tantissimo, pur non credendoci, no? Per cui si può stare in quelle cose cogliendone il lato rivoluzionario, il lato politico, il lato... Tuttavia, quella della smarchitudine per me è una tensione, non è quello che in realtà riesco a fare sempre. È, per esempio, la settimana scorsa mi è capitato un episodio in cui la mia smarchitudine ha subito uno scacco. Stavo a Messina, presentavo senza titolo di viaggio e a un certo punto una persona dal pubblico ha fatto un intervento e vabbè, io ero indispettita subito per il tipo di intervento, ma poi mi sono indispettita perché questa persona si è presentata come una taumaturga e poi, aspetta, me lo sono segnato per non sbagliare. Perché poi dopo ho cercato di recuperare, mi sono fatto dare sui contatti, sul suo profilo Instagram scrive: aiuto donne visionarie a recuperare il divino potere femminino, potere generativo e generare miliardi, 3 miliardi all'anno, no? Non lo so se la cifra è espressa in euro, in dollari o in yen. Comunque sì, 3 miliardi di soldi. Giri il contatto poi. Eh? Giri il contatto. Sì, no, volendo in privato mi giro il contatto. Ora, io immediatamente quello che ho sentito è: ma che cazzo è questa? Cioè, è una cretina, una cogliona, una truffatrice, non so. Questa è stata la mia prima reazione, la prima cosa che ho sentito. Dopodiché, proprio in quei giorni stavo, no, leggendo la versione definitiva del libro di Mariano e ho detto: oddio, probabilmente mi sto trovando davanti alla versione contemporanea di una di quelle donne di cui racconta Mariano, no? Cioè, una persona che da una parte sta cercando di trovare uno spazio per sé, dall'altra parte offre una relazione di aiuto che potrebbe essere, no, forse non troppo diversa da quella che possono offrire tanto psicologo e forse posso, no, provare a evitare di fare la butta fuori e provare a entrarci in relazione. Non ci ho parlato io, ci hanno parlato altre persone, però appunto volevo, aspetta, recuperare pagina 46, ancora un passaggio del tuo libro in cui questa frattura, questo tentativo di abitare la frattura, la contraddizione è esplicitato molto bene. Aspetta che io non ci vedo una sega. Aspetta, devo fare aperto? No, leggi tu Mariano, perché è troppo buio per me, scusa. Quell'oggetto, stiamo parlando di una piuma? Sì, stiamo parlando di una piuma. Quell'oggetto minimo è la piuma dello Spirito Santo, che finisce tra le mani di una di queste mistiche leggende. Quell'oggetto minimo esercita su di me un fascino altrettanto forte, ma di natura assai diversa. Il mio è un punto di vista di un illusionista, e ad attivarmi non è mai il sovrannaturale in sé, ma il cortocircuito tra il sotterfugio e la fede mistica, l'imbarazzante filo rosso tra l'inganno e il miracolo, la sproporzione tra il raggiro e le sue implicazioni spirituali. Ok, ci racconti questa cosa, come si abita la frattura fra trucco, fede e ci racconti anche di queste donne un po' al di fuori dello schema binario buono cattivo. Sono tutte storie amorali, perché queste personaggi non vanno giudicate con la morale classica, e quando i giornalisti e i giornalisti mi intervistano è sempre un po' complicato farlo capire, perché è un punto di vista terzo rispetto a quello che ero abituato anch'io a tenere. Io, come dicevo Filo prima, ho militato tanti anni in un comitato che si occupava di fare la butta fuori, cioè mettevamo alla prova le persone che dicevano di avere i poteri paranormali, facendo dei test e dimostrando che non li avevano. Quindi io tenevo fuori dalla scienza persone che millantavano doti paranormali che non avevano. Quindi ero orgogliosissimo di fare lo sbirro della scienza, E a un certo punto mi sono reso conto che questo atteggiamento è il classico atteggiamento di chi tiene i confini, cioè di chi dice di qui non si passa, tu puoi passare, tu no. E l'ho fatto, mi ha aiutato molto a leggere Tabloid Inferno di Selene Pascarella, uscito per Allegre qualche anno fa, che è un libro che cerca di rileggere i casi di cronaca nera con uno sguardo di misericordia per le persone colpevoli. C'è un capitolo su Anna Maria Franzoni che è strepitoso. E quello sguardo di misericordia che cerca quello che ci sta dietro a quelle esperienze, io l'ho trovato più che illuminante. Per cui a un certo punto del primo capitolo, in cui racconto che la Sibilla Moderna, esattamente come Vanna Marchi, per la legge doveva finire in galera, io racconto quello che fa col pilota automatico, poi come viene il coyote quando arriva, che ormai è troppo tardi, si rende conto che sotto c'è il buco e cade, mi rendo conto che ho usato il pilota automatico per raccontarla. Quindi cerco di tornare indietro e dico, no, un attimo, che cosa ho imparato leggendo Selene? Provo a raccontare la stessa vicenda con un linguaggio diverso, ed in effetti la stessa vicenda che ho raccontato, come raccontavo 10 anni fa, si può raccontare in termini infinitamente più raffinati, anche di come di quello che ho usato io, perché è solo un tentativo, e far emergere da questa vicenda quello che non è più un inganno volto al male di chi sta di fronte. Nel suo caso la sua figura era quella di una terapeuta che si prendeva cura del mondo interiore di chi le stava davanti e che in uno scambio reciproco era anche comprensibile. Quello che in qualche modo ho intuito è che in un mondo pacificato si può essere schizzinosi rispetto per esempio ai metodi di cura, per cui solo curarsi con cose scientificamente provate, con terapie che abbiano tutti i crismi della scienza, anche psicoterapie eccetera, ma nel nostro mondo in cui ci sono conflitti sociali, c'è l'oppressione dell'etropatriarcato su tante e tanti di noi, allora fare gli schizzinosi e dire no, la magia no, l'inganno no, ma forse è il caso anche di valutare soluzioni o strategie che siano quelle della magia. Nel caso specifico di quella piuma, stiamo parlando di una cuoca di Carignano, poverissima, che mirava a raggiungere le massime sfere del potere, cioè lì voleva arrivare a Re Carlo Alberto, seguendo la stessa parabola che seguì Gustavo Roll nel Novecento, invece un bianco benestante che raggiunse i più grandi regnanti, che ancora oggi viene dato via un culto laico. Scusa se ti interrompo, ma parlare male di Gustavo Roll a Torino, capace che viene un temporale. Attenzione, teniamoci stretti alla sedia. Quindi lei segue la stessa parabola, come Gustavo Roll utilizza dei mezzi per dimostrare di essere in grado di essere in contatto con l'aldilà. I mezzi di questa Carlotta Cerrino si chiamava, erano mezzi truffaldini di Roll, ognuno pensi quello che vuole, è però la parabola umana che è interessante, perché mentre Roll diventa un santo laico a cui voglio intitolare una via di Torino e addirittura un museo, lei quando viene scoperta finisce in un carcere a Pallanza, dove non sopravvive più di 2 settimane, perché c'entrerà la questione di classe, c'entrerà la questione di genere, me lo chiedo, chissà, ma che cosa faceva lei? Per esempio catturava dall'aria le piume dello Spirito Santo. Lei aveva un pollaio, ogni tanto staccava una piumetta, la un'occa delle sue, se la teneva in un involto, arrivata davanti al re, diceva di vedere al centro della stala la colomba dello Spirito Santo che arrivava, imponeva le mani, faceva vedere che era caduta una piuma, e il re, in uno dei suoi diari, racconta: questa mattina una donna mi ha consegnato tra le mani le piume dello Spirito Santo, io le custodisco come un oggetto mistico assolutamente, ed era la piuma che arrivava dal pollaio di Carmagnola. Il re è una cuoca. La fine che fa anche lei è orribile, ma l'idea che una semplice piuma di un pollaio possa diventare una reliquia come appunto di Dio stesso, non di un santo minore, di una delle 3 persone della Trinità, a me piacciono questi salti logici, questi vertiginosi passaggi tra un trucco così banale. L'altra cosa materializzava acqua santa, perché entrando in casa di qualcuno vedeva un vaso e punciava le dita dove l'acqua di più. E teneva lì per qualche secondo, poi spruzzava in faccia alla gente e diceva: mi ha colpito l'acqua del cielo, Maria. E in questo modo, pensate che il diario in cui Carlo Alberto scrive queste cose viene ritirato dal commercio, tutte le copie vengono bruciate. Noi conosciamo questa storia solo perché 2 cronisti disobbedienti hanno detto: no, questa storia va tramandata. E quindi nascondono in una cassetta un diario di questi fatti, e così ha raggiunto anche le mie mani questa storia, altrimenti i Savoia l'avrebbero cancellata per sempre. Quindi c'è anche un tentativo di riportare sul, diciamo, sulla scena pubblica delle vergogne dei nostri regnanti, che trovo particolarmente paradossali, interessanti, divertenti anche. Ok, però a questo punto ci dici com'è finita Carlotta Cerrino, e però che, qual è la fine che tu hai immaginato per lei, che non è quella che i documenti ci indicano potrebbe essere? Sì, qui ho fatto sono fatto forte del potere della letteratura, cioè dopo aver fatto leggere questo capitolo all'amica Nadia, Nadia mi fa: bellissima, ma Carlotta non può fare questa fine, assolutamente, devi trovare un modo perché la storia finisca diversamente. Quindi prendo, parto, vado a Pallanza, non era imprevisto, e scopro che dove oggi secondini e secondine imparano a diventare carcerieri, è il vecchio carcere dove era stata chiusa lei, dove era sopravvissuta pochi giorni. Mi accorgo che a due isolati dalla costa, dove ci sono barchette, e io mi sono detto: una donna che per una vita è riuscita a cambiare la sua voce perché era ventriloqua, a indossare un pezzo di abito perché non aveva i soldi per comprare un abito intero, e farlo spuntare da una porta per convincere Carlo Alberto che sua madrina era tornata in vita e gli stava parlando. Ora, una donna così, ma che cosa ci mette a prendere il vestito di una suora dalla cesta dei panni, indossarlo, prendere una e dire alle guardie: sentite, questa la porto fuori a fare un giro perché, e scappare con una barca? E quindi ricostruisco, cercando di essere totalmente coerente con i fatti storici noti, come potrebbe essere fuggita, raccontando che è una mia fantasia, quindi senza ingannare chi mi legge, e lasciandola come un'ipotesi non provata, ma figlia di un desiderio non solo di osservare e studiare la storia dal punto di vista passivo e di riportarla, però anche forse non di modificarla come fanno i revisionisti, ma di modificarla per come noi vogliamo immaginare il futuro. Grazie Nadia, perché senza... Certo. Sono tra l'altro suggestioni che vengono dalla Val Susa, non a caso, dall'amica Nadia. Vorrei l'attenzione anche sulla maniera in cui è scritto questo libro. Ci sono delle storie incredibili, e apparentemente si presenta come un saggio storico, però non è solo un saggio storico, come tu hai già detto, è anche un diario di viaggio, però ci sono delle ipotesi, e ci sono delle parti di fiction, in particolare oltre a questa che hai appena raccontato, anche nell'ultimo capitolo, di cui poi forse dobbiamo dire qualche cosa. Ed è un libro a tutti gli effetti ibrido, sicuramente che sfugge alle classificazioni, non è interamente un saggio, e secondo me è completamente ascrivibile alla letteratura. La domanda che mi sono posta mentre leggevo è se questa ascrivibilità alla letteratura sta nel tentativo di, insomma, far sì che chi legge si appassioni a queste storie, o riguardi più il tema di cui tratta, no? E quindi il mistero, il paranormale. E a questo punto recupero di nuovo una citazione che sta nel tuo libro, per chiarire cosa intendo dicendo queste cose. Sta a pagina 117, Mariano, mi vergogno tantissimo, ti chiedo di leggerla tu di nuovo, perché non ce la faccio. E dove ci si chiede appunto, legge. Stiamo prendendo in esame tutta una serie di testimonianze su una bambina che era in grado di vedere e di leggere i libri bendata. E ci sono centinaia e centinaia e centinaia di testimonianze, centinaia di pagine che raccontano questa cosa di minimi dettagli, ma non ce l'abbiamo più presente fisicamente da esaminare oggi. Il cuore della questione si esprime in un fiume di parole, un patrimonio di lettere, testimonianze, accuse, insinuazioni, offese, dialoghi e descrizioni dettagliate, giunto intatto sino a noi e aperto a interpretazioni opposte. Ma come fa notare Jeffrey Kripal, tutto ciò non è stupefacente perché è tipico del paranormale rivelare le caratteristiche di un dramma letterario, a patto di definirne in modo opportuno la natura letteraria. Per capire cosa intende basta pensare allo studio dei dischi volanti. Gli archivi delle associazioni ufologiche crollano sotto il peso delle testimonianze di chi ha visto strane luci nel cielo e incontrato omini verdi. Lo studio degli UFO in sé consiste nella lettura comparata di migliaia di avvistamenti nella loro paziente catalogazione e nel confronto dei relativi resoconti. Un lavoro che non ha mai a che fare con oggetti fisici di origine aliena, ma sempre e soltanto con le parole. Ok, quindi la domanda, se questa cosa può essere una domanda, è se la varietà di stratagemmi letterari che hai messo in campo per scrivere questo saggio storico attiene più al tentativo di creare interesse o al tipo di materia che stai che è il tuo oggetto di studio? E poi entrambe le cose. Data la collana in cui è uscito questo libro, diverse persone mi dicono che strano, si capisce. Perché io non sono uno scrittore, sono un illusionista e, come direi, artigianato il mio. Cerco di usare le parole per raccontare le cose che più o meno ho capito facendo l'illusionista. Per cui il linguaggio semplice è abbastanza terra-terra e figlio un po' di un limite. Però è verissima questa cosa del paranormale e della sua natura letteraria. Io cerco di fare questo gioco. Poiché non è un libro di debunking, non mi interessa dire guardate questa bambina, leggeva i libri chiusi, c'era il trucco è questo, non fatevi fregare. Questo è un atteggiamento con cui si scrivono i libri, non è il mio. A me interessa raccontare il fascino che produceva all'epoca vedere questa cosa, cercare di vedere se nell'oggi esistono cose che producono lo stesso effetto. Poi, per chi vuole, faccio delle ipotesi su come facesse, ma questo è soltanto una parte della cosa. Quindi il racconto iniziale è quello che si vedeva, poi vi porto dietro le quinte se volete seguirmi e vi dico secondo me che cosa c'era dietro, e poi si torna davanti per capire che relazione c'è tra le due cose. La struttura del libro probabilmente fotografa la mia mente che, essendo cresciuto negli anni 80, è stata educata dai videogiochi, per cui i videogiochi sono a livelli, si parte con livello 1 che ha una certa difficoltà e ti allena a superare una serie di mostriciattoli, poi si passa al secondo, c'è qualche difficoltà in più, poi il terzo, il quarto e il quinto, il sesto livello tipicamente è quello del boss finale, che mette insieme le difficoltà di tutti quelli precedenti. Ecco, il libro ha questa struttura, sono 6 capitoli, ciascuna delle veggenti, sonnambule, chiaroveggenti di cui parlo nei primi 5 capitoli deve affrontare un diverso problema, una qualche oppressione specifica, e lo fa sviluppando dei trucchi. Io man mano li imparo, perché il livello 6, il capitolo 6, è l'apocalisse, cioè l'ultima protagonista, la donna invisibile, è costretta ad affrontare contemporaneamente tutte le difficoltà che hanno dovuto affrontare singolarmente le prime 5, e quindi deve mettere a frutto tutto quello che hanno imparato le altre senza conoscerle, perché non si conoscevano. Per cui il libro ha un po' questa struttura climatica per questo motivo, e in particolare l'ultimo capitolo è quello più di fiction, non tanto per il racconto di questa donna invisibile, sembra finta la storia, ma è vera, la fiction che ci ho inserito sono invece io che prendo il telefono a un certo punto mentre sto impazzendo, mi siedo davanti alla casa di Giovanna d'Arco a Orléans e chiamo Booming 1. Questo perché? Perché a un certo punto questa vicenda ambientata e che è accaduta nella seconda metà dell'Ottocento finisce e confluisce dentro QAnon, il complotto che ha portato la gente a Capitol Hill ad assaltare Capitol Hill. Perché una storia dell'Ottocento finisce ad assumere tutti i tratti che oggi ha QAnon? Chiamo Roberto Bui, Booming 1, autore del libro La Q di Complotto, uscito per Allegre pochi mesi fa, che all'epoca, quando era l'agosto 2020, lo stava scrivendo, e gli chiedo di darmi una mano, aiutami a decifrare quello che sta succedendo, e insieme cerchiamo di decifrare quello che ho trovato, cioè questa enorme teoria del complotto che apparentemente viene usata come chiave per risolvere l'ultima escape room, che purtroppo è un escape room reale, non c'è nessun gioco dentro, non c'è nessun gioco dietro, perché lì c'è da fuggire da una prigione da cui nessuno prima è riuscito a uscire. E quindi con lui a distanza cerchiamo di decifrare l'enigma. Questa telefonata non è avvenuta davvero, cioè è stata ricostruita a posteriori, io ho scritto questo dialogo, gliel'ho mandato, lui è stato ben contento di emendarmi quelle due virgole, di aggiungere quella frase che rispecchiava meglio il suo parlare, e poi quando l'abbiamo presentato insieme a Bologna abbiamo raccontato che la fiction è quello che riguarda noi persone vere, contemporanee, non è fiction invece quello che raccontiamo nel passato, quindi c'è un po' questa inversione. Quando si raccontano storie vere si ha una libertà in più, certe storie, come per esempio quella delle lumache telepatiche, nessun editor me l'avrebbe fatta passare perché è troppo inverosimile. No, questo è un libro che mira persone adulte, toglila. Invece, essendo vera, l'editor non può dire nulla. La storia delle lumache telepatiche è meravigliosa. Un tizio chiamato Benoit, nel 1850, in vice una conferenza stampa, annuncia nel 1850, ben prima che Marconi scoprisse le onde radio, che ha scoperto la comunicazione wireless. Fa copulare due lumache, le separa e scrive la lettera A sul dorso di entrambe. Poi fa vedere che accarezzando il dorso della lumaca a destra, la lumaca a sinistra, poiché c'è stato uno scambio di fluidi tra i due durante il rapporto, la copula, quando accarezzo l'una, l'altra rizza le antenne. E quindi questo ha l'idea di montare 21 lumache da una parte e 21 dall'altra contrassegnate con delle lettere, 21 coppie che si sono quindi formate perché lui le ha fatte accoppiare due a due, e promette che spedendo una ruota a New York e tenendone una a Parigi è possibile comunicare da una parte all'altra dell'oceano in maniera istantanea. Non è fantastico? Poi addirittura immagina in anticipo lo smartwatch, perché dice: se riusciamo a crescere delle lumache abbastanza piccole da che ci stiano nel quadrante di un orologio, lui non faceva così perché gli orologi erano ancora da testino, c'era l'idea che si potessero usare semplicemente degli smartwatch per comunicare. Io poi ho immaginato delle orge tra non solo due ma 3, 4, 5 per fare più esemplari, in modo da immaginare una internet ottocentesca. Morale della favola: lui dimostra in una sala che questa cosa funziona, riceve dei finanziamenti e scappa con il grano e sparisce, perché naturalmente era una truffa, ma era una truffa perfettamente allineata sulla credibilità scientifica dell'epoca. Sembrava vera, quindi sui giornali esce come autentica, poi lui sparisce e non c'è più nessuno che possa in qualche modo spiegare ai parigini: ma era vero, era falso, come mai non c'è più quello che la nostra protagonista del capitolo 5, la sonnambula Prudence Bernard, intuisce che c'è un mercato, e quindi apre un salone sotto il più bel passage parigino insieme al marito, dove promette alle 10 di sera, al culmine di uno spettacolo di tradizione del pensiero, l'esperimento della telepatia tra lumache. Lei e il marito, che si indossa due strane piume che lo fanno sembrare una lumaca, poiché praticano ogni sera rapporti sessuali regolari in quanto sposati e benedetti da Santa Madre Chiesa, lo possono fare, hanno sviluppato questo rapporto escargotico e, basandosi sullo stesso meccanismo di scambio di fluidi, possono presentare in teatro questi numeri. I numeri sono gli stessi che avete visto poco fa fare da me e Filo di telepatia con voi del pubblico, quindi si basano su trucchi dell'illusionismo, ma con questa cornice pseudoscientifica la gente accorre e dice: wow, la scienza è davvero avanti. Quindi capite in che modo l'esperimento truffaldino può vestirsi in modo diverso, così come un cellulare sembra nuovo cambiando la sua skin. Il trucco che loro utilizzano è lo stesso che io utilizzo sempre quando faccio numeri di telepatia in pubblico e che veniva usato nel 500, non è mai cambiato: cambiano le skin. Nell'Ottocento era il magnetismo delle lumache, oggi, se andate a vedere uno spettacolo del mago Alexander, lui chiama in causa l'entanglement quantistico e spiega che se si prende un elettrone e lo si fa ruotare qui, il suo compagno che era stato connesso a lui con un rapporto anche qui immagino di copula tra elettroni, per quanto sia lontano, ruoterà nella stessa direzione. Questo è un fenomeno che è noto alla scienza e chiamato entanglement. Se ci fosse Quarovelli probabilmente mi darebbe una scuzza per come l'ho raccontato, però più o meno è una roba così. I computer quantistici si basano su questo meccanismo. Quindi, a crederci, oggi siamo ingenui come nell'Ottocento o oggi è diventato vero? Non era quindi così balzana la cosa. Alexander racconta in teatro: signora, ha scelto la carta, adesso mi connetterò con la sua mente, il suo spin ruoterà e lo spin del mio cervello ruoterà all'unisono e mi comunicherà che lei pensa al tre di pori. È una balla anche questa, come quella delle lumache, ma funziona. E naturalmente ci chiediamo domani quale nuova narrativa scientifica verrà usata. Ma questa Prudence, vedrete quante, se lo leggerete, vedrete quante di queste invenzioni assurde ha fatto, essendo sempre un passo avanti rispetto ai giornali che cercavano di smontare quello che faceva. Abbiamo capito come fai? E la sera lei aveva un gioco nuovo, e un nuovo mistero da lasciare all'opinione pubblica. C'è una domanda di Antonia, però prima volevo solo dire una cosa, che in questi giorni in Mariano abbiamo fatto degli sbarioni su delle possibili presentazioni problematiche utilizzando le retoriche del presente, per fare dei giochi di mentalismo o di sonnambulismo oppure di trasmissione del pensiero, di telepatia, potete scegliere la cornice che vi piace. E una cosa che c'eravamo che ho proposto inizialmente io era: io sono vaccinata, quindi ho dentro, diciamo, dei microposi sbagliati messi dalla tecnologia dentro, e anche Mariano è vaccinato e avrei scelto persone vaccinate, esatto, per cui non possiamo comunicare in questa maniera attraverso le cose che la scienza ci ha messo dentro. Lo possiamo fare anche al contrario, però, no? Possiamo scegliere persone non vaccinate che sono ancora pure e quindi hanno ancora quel insomma mesmerismo animale, quel magnetismo animale puro intoccato dalla scienza, e loro solo possono comunicare, per cui no, possiamo scegliere di giocare in tutte le maniere possibili immaginate. Antonia, tutta a te, vieni. Non è una domanda, non è lo stesso principio delle truffe finanziarie, che ne so, della bolla di subprime, tutte le cose tipo il marketing multilivello. Cioè, mi sembra che sia un po' la stessa cosa, cioè, nel senso, credere che una, cioè, alla fine truffe finanziarie e tutta l'economia finanziaria si basa su, se non esistono, cioè, non sono soldi veri. Perfetto, quello. Sì. I modi in cui queste sonnambule ne hanno approfittato sono davvero epici, come avrete intuito. Poi dalla presentazione che abbiamo fatto altrove, io a questo punto tiravo fuori una lumaca con un telefono nel guscio e chiedevo quanti la riconoscessero, e persone tra 20 e 30 anni la riconoscevano come un personaggio di One Piece, perché One Piece ha i lumacofoni, i dendemushi, che arrivano da lì, affondano le loro radici in questa storia dell'Ottocento, ma non c'è scritto da nessuna parte, cioè da... Sarebbe anche interessante capire come ci è arrivato, forse qualcuno che era in Italia per studiare su Lady Oscar e si è imbattuto nel giornale sbagliato. Solo chiedere se ci sono delle domande, riflessioni, questioni, cose che volete sapere. Ho ascoltato le registrazioni di tutte le precedenti presentazioni di questo libro e mi rendo conto di aver fatto delle domande che le altre persone non hanno fatto, però che forse non rendono chiaro di che cosa parla questo libro, e per cui magari potreste avere delle curiosità e le potete esplicitare. Mentre ci pensate, io propongo l'ultima suggestione a Mariano, ed è sul suo lavoro di storico. Un pochino lo ha già menzionato, nel senso che questo libro è allo stesso tempo tanto lavoro d'archivio, no? Farsi venire il culo piatto e cavarsi gli occhi sui microfilm e sui libri antichi, però è anche tanta strada. Cioè andare in giro e fare macinare chilometri con diversi mezzi di locomozione, dai piedi al treno, e per cui no, riprende anche quella che è una dei motti della Women Foundation, che è l'archivio e la strada. Quello che fa sicuramente è cantare l'archivio, cioè restituire vita. È un libro estremamente divertente proprio nella lettura, anche se travestito in qualche modo, in qualche parte, da saggio storico, e per cui ci fa sentire che quelle storie che vengono raccontate riguardano noi, il nostro presente e anche potenzialmente il nostro futuro. E poi c'è questa cosa che a me ha affascinato tantissimo, perché più volte, no, Mariano, mentre ci racconta queste storie, ci racconta anche che cosa sta facendo per raccontarci queste storie, dove si trova, in quale archivio, in quale strada di Orléans o di Torino si trova in quel momento. No, la cosa che ci racconta è come, in maniera assolutamente rocambolesca, alcune di queste storie ci siano giunte. tante volte ci sono documenti che esistono per essere secretati, per rimanere in una ristretta cerchia di persone, e che poi grazie alla disobbedienza di una o più di queste persone diventano, insomma, vicende incredibili, possono arrivare fino a noi. E per cui volevo che ci raccontassi qualcosa su, appunto, anche quest'altra contraddizione che tu abiti sicuramente fra l'archivio e la strada. E il terzo elemento della triade, che è il collettivo, perché devo dire che da solo non sarei stato in grado, se non avessi per esempio avuto Denise che mi ha commentato delle tappe che ho fatto e mi aiutava a tradurre certi passaggi incomprensibili, la traduzione della visione di Rochette sua, e Filo e Franco, che regolarmente sono a distanza di un click dalla nostra chat, che mi aiutano a volte semplicemente a tirarmi su da un crollo emotivo. E io ho già citato Nadia, potrei citare Nora, è un luogo dove quando vieni basta chiedere a Denise. Sono arrivato a un vicolo cieco, lei prende il libro e ti dà un libro sulle sibille sicule e tu boom, ok, e ti si rispalanca. Per cui il terzo elemento è questo. Quanto ero cambolesco, cercare certe cose è super frustrante. Io una volta ho fatto un viaggio fino a Milano per cercare un libro, e quando arrivo lì era la pubblicità del libro. Era un libro che esisteva solo negli Stati Uniti e io non avevo fatto, poi tu che sei esperta l'avresti sgamato subito, c'era scritto 4P puntato, cioè 4 pagine, era un leaflet piegato con la pubblicità del libro, che però restava solo in America, quindi mi sono buttato via la giornata e questa cosa mi ha fatto veramente montare la carogna. E nei giorni successivi ho fondato la Biblioteca Magica del Popolo, che è uno strumento web, è una biblioteca online. Io non metto a disposizione libri direttamente, colleziono link a librerie, soprattutto biblioteche pubbliche in tutto il mondo, che hanno la scansione integrale di, ormai sono più di 3.000 libri su questi temi, per cui le vite di queste sonnambule disperse nelle annate delle riviste più, dei quotidiani più probabili e reperibili, io le colleziono, e poiché servono a me per scrivere il libro, me li registro in questo database è pubblico, quindi anche tutte voi potete usufruirne. Se dovete fare una indagine storica, lì andate ed è sempre aggiornato, perché se domani mi innamoro della moglie di Cagliostro, inizio a fare ricerca su di lei, dove prendo appunti vado a mettere record della biblioteca, per cui è il mio archivio, che però è l'archivio di tutte e tutti. Per cui a volte, da certe frustrazioni, come non trovare il libro che stavi cercando, devi poi incanalarle in un qualcosa che vada un po' oltre il semplice rant sui social, e in questo caso è diventata la Biblioteca Magica del Popolo. Ok. Domande, dubbi, perplessità, riflessioni? No, però a questo punto invece, se volevamo proporvi, se davvero non ci sono domande, dubbi, perplessità, di fare un esperimento di reincantamento e di magia transfemminista. Ditesi spontaneamente con la testa. Grazie. Questa? Il coso? Sì. Ok. Allora, ho indossato dei guanti di lattice per maneggiare questo oggetto. Questo oggetto è stato rinvenuto nei giorni scorsi fra le piante di questa libreria caffetteria. È stato prontamente riconosciuto come una fattura. È uno strumento per fare il malocchio, ok? Io lo tocco con i guanti, perché sono di quella categoria di persone che non ci credo, però non si sa mai, ok? Per cui, cioè, comunque, no, appunto. E come si fa? Grazie, la signora documenta, per la stampa estera anche. Questo probabilmente è un ulteriore episodio di una catena di episodi che coinvolge questo posto. Sputi, insulti, non me ne ricordo tutte le cose che... Non ci facciamo mancare nulla, dice Denise, cioè gente che passa e dice cose o fa cose, mette adesivi col tricolore, queste robe qua. E per cui sostanzialmente, probabilmente qua dentro ci sono delle maledizioni. Come si reagisce a una cosa magica, a un attacco magico di questo genere? Se chiediamo alla scienza ci dice fregatevene, non funziona. Buttatelo nel cesso, nell'immondizio. La differenziata ti consigliano di fare. E non è una soluzione, cioè no, noi non ci crediamo, ma non è una soluzione che ci convinceva pienamente. Cioè, la magia forse non si combatte con la scienza. No, per cui proponiamo una soluzione omeopatica, combatti il simile con il simile e a questa fattura, a questo coso voodoo, rispondiamo con risponde soprattutto Mariano, io insomma ho collaborato in maniera esterna con un laboratorio magico collettivo, per cui se vi va potete insomma essere parte di un controattacco psichico è magico, togliatelo. Abbiamo pensato che un oggetto individuale che esprime una singolarità andava contrapposto invece a un collettivo, e visto che siamo tante tanti, io vi faccio vedere il prototipo che abbiamo pensato, l'abbiamo chiamato, battezzato Filo, perché è di frassino naturalmente, perché come sapete il frassino viene utilizzato per combattere i vampiri. Il dispositivo fatato di autodifesa transfemminista fai da te. Qua ci sono le istruzioni per realizzarlo. L'oggetto è questo, è uno stecchino del ghiacciolo in frassino con un buco sopra, uno spago con un certo numero di giri, delle perline e un simbolo sopra, che in questo caso è un cuore, ma ne abbiamo varie a disposizione. Entrando c'è un tavolino dove lo potete realizzare, e se volete questo lo rimettiamo lì al nel suo posto. Noi non lo togliamo da lì, gli mettiamo altri amuleti in compagnia, uno qui, io ne ho preparati un po' venendo, ma c'è la stellina. Io invito tutte le persone che vogliono partecipare a questo rituale, eccetera, di realizzare. All'interno trovate lo spago, l'adesivo, lo stecchino, il punteruolo e le perline. E quindi prima di andare via, per far sentire meno sola la fattura, mettiamoci le nostre. È così. Ora, io non ho l'abilità archivistica di Mariano, però lavoro come bibliotecaria, per cui sono andata a cercarmi in queste ore un meccanismo di attivazione antico che potesse funzionare perché no, una volta fatto l'oggetto bisogna comunque dargli la corrente in qualche modo, e secondo me ho trovato questa formula antica che è un po' più pletorica, diciamo, di Simsalabim, però dice c'è dell'odio qui intorno, è una disecologia, oi sibling, qui urge opporre magia, collettiva incantagione, la fattura la imbriglia, orgogliose pacchiane noi faremo guerriglia. Entrando, tavolino destra, amuleto di, come l'abbiamo chiamato, il dispositivo fatato di autodifesa transfemminista, fai da te. E questo è il vaso, ma potete distribuirli anche su tutta la via per creare una resistenza maggiore. Grazie. Andate, propagate il verbo, compratevi incantagioni, sta dentro, è anche il dossier. Ciao. Grazie.